Pronto? Pronto, don Andrea? Sì, pronto. Ah, sì, sì, adesso ti sentiamo benissimo, don Andrea. Siamo... perché prima non mi... Sì. No, non abbiamo sentito. Comunque ringraziamo la Madonna, perché sì, tu stai per iniziare una cosa molto importante e allora, insomma, magari c'è qualche diavoletto che la vorrebbe impedire. Senti, don Andrea, allora è sì, per te è un ritorno, vero? È un ritorno, sì. Qualche anno fa mi avevi cercato, no? Per sì, parlare della confessione. Avevamo parlato del tuo libro Più gioia in cielo, sì, e sottotitolo Incontrare Gesù e il suo perdono. Esattamente. E sei arrivato fino al 2004, a luglio 2004. Proprio così. Adesso ritorni tu e ritorni con te, ritorna tutto l'Opus Dei, no? Per parlarci del Santo Rosario. Contemplare sì, Cristo con gli occhi di Maria, i misteri del Rosario meditati, vero? Sì, sì, questo è il titolo di un altro mio libro che a me venne in mente di scrivere quando, ti ricordi quando Giovanni Paolo II pubblicò un'enciclica sul Rosario, il Rosarium Virginis Mariae. Certamente, bellissimo. E guarda che hai fatto un lavoro, un capolavoro il tuo, perché sono i 20 misteri divisi ciascuno in 7 punti, dove tu appunto ci presenti il mistero così come lo leggiamo nel Vangelo. È proprio così, infatti. Quindi è un libro preziosissimo che consigliamo a tutti, specialmente per adesso che stiamo iniziando il mese di maggio, don Andrea. Esattamente, poi tu pensa che adesso proprio qualche giorno fa il Cardinale Scola di Milano ci diceva di preparare la visita del Papa recitando il Rosario, no? Quello, il Papa a Milano che verrà a fine certo, mese. No? Certo, certo. Quindi abbiamo un motivo in più, ecco, per dire bene il Rosario in questo mese. Certo, e tu ci aiuterai senz'altro a riscoprire questa preghiera anche proprio facendocene meditare mistero per mistero. Mistero per mistero. E questo è quello che mi propongo di fare, spero di riuscire. Sì, stai facendo molto bene, come ti ho suggerito io, di alzare la voce. Va benissimo. Questo tono di voce va bene, no? Mi si sente. Mi va benissimo, sì. Don Andrea. Allora puoi iniziare, don Andrea. Ecco, quanto tempo mi dai? Fino alle 11. Fino alle 11? Sì, sì. Va bene. Ce l'hai l'orologio, Sì, sì, ce l'ho. Benissimo. Allora, io provo, quando Don Tino mi ha chiesto di fare questa presentazione dei misteri del Rosario, ho pensato di partire dal mio libro e di partire dal primo mistero gaudioso, l'annunciazione dell'angelo a Maria. Io posso provare a prendere appunto da come ho fatto questa proposta, pensando di dare una mano a tutte le persone che amano il Rosario, che lo vogliono recitare ogni giorno o spesso, e anche in famiglia o anche in comunità. Perché il Papa Giovanni Paolo II ci aveva dato un suggerimento che a me è sembrato molto bello, però aveva bisogno di un aiuto, cioè il fatto di meditare un po' un brano della Sacra Scrittura, del Vangelo, che ci permettesse di entrare dentro nel mistero. Poi lui suggeriva anche che oltre al brano della Scrittura ci fosse un silenzio di meditazione e poi, se fosse possibile, dopo la decina anche una piccola preghiera che radunasse quello che era stato il contenuto di questa meditazione, di questa contemplazione, no? Allora, questo è un obiettivo bellissimo e da sempre, da quando esiste il Rosario, i santi e i papi si sono dedicati a cercare di aiutarci a trasformare la preghiera della voce anche in preghiera della mente e del cuore. E la cosa bella, per esempio, io che sono dell'Opus Dei mi ricordo il nostro fondatore San José Maria, che ci diceva che dovevamo cercare di entrare dentro alle scene del Vangelo ed essere proprio come un personaggio tra gli altri. Fra l'altro questo mio libro se è nato è proprio perché io fin da giovane conoscevo anche un altro libretto bellissimo di San José Maria, che è sempre sul Rosario, in cui lui proprio così molto brevemente ci incitava ad entrare dentro proprio, no, nelle scene del Vangelo e a guardare Maria e a guardare Gesù che nasce e così via, no? Allora io ho pensato, e siccome i brani del Vangelo che parlano dei misteri hanno una certa lunghezza, di spezzettarlo in 7 parti, pensando che ciascuna parte potesse servire a un giorno della settimana. Allora io, sperando di non stancare o di non annoiare gli uditori, provo oggi a dirvi quello che ho pensato riguardo al mistero dell'Annunciazione. Allora io faccio il breve punto del Vangelo e poi quello che leggo, quello che ho scritto, e vi dico qualcos'altro che ho pensato nel frattempo per darvi spunti, perché quando recitate il Rosario voi possiate pensare qualcosa, pregare, vedere Maria e dire a Gesù le parole che nascono nel cuore ispirate dallo Spirito Santo. Al 6° mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Ecco, io qui mi fermo, bastano 2 versetti, volendo, e provo a dire qualche parola. Cosa scrivo? Dio manda il suo angelo, lo manda in un tempo preciso, pensato da tutta l'eternità. È il tempo giusto per Maria, per Giuseppe, per Nazaret, per la Galilea, per il mondo, per la storia dell'umanità, per la storia della salvezza. È Dio che lo manda nel 6° mese di gravidanza di Elisabetta, non prima né dopo, al momento giusto. E non un angelo qualsiasi, anche lui ha un nome e un compito precisi, si chiama Gabriele. Maria è vergine ed è promessa sposa a un discendente di Davide, il re che aveva avuto le promesse di Dio sul Messia che sarebbe venuto. Tutto è preparato da Dio e dalla storia dell'uomo. Tutto è pronto. Dio chiama Maria, fra poco Gabriele glielo dirà, e la sua chiamata è orientata a Cristo più di qualunque altra vocazione divina, e come tutte. Ecco, questa è la mia breve meditazione su questo mistero. Pensate che naturalmente tutte le volte che mi capita di leggere questo Vangelo, a noi capita spesso anche nella liturgia, no? Io lo trovo sempre nuovo e sempre mi vengono in mente cose nuove, e so che a tante persone, quindi anche a voi, verranno in mente, ispirate dallo Spirito Santo, un sacco di cose bellissime che sono quelle importanti, no? Io ho pensato che le cose che ascoltiamo da questa storia della vocazione di Maria, è lei che le ha raccontate. Sembra banale, è logico che è così, non può che essere lei che le ha raccontate, però questo significa che lei le ha conservate nel suo cuore lungo tutta la sua vita, le ha continuate a meditare e le ha raccontate a qualcuno, alla prima chiesa, ai primi discepoli, al suo figlio Gesù prima ancora, all'evangelista o ad una tradizione che poi è arrivata fino al Vangelo. Allora le ha raccontate a noi che siamo suoi figli. Allora io penso che tutte le vocazioni, quando vengono narrate, ecco, come per esempio, faccio una parentesi, mi veniva in mente pensando a Giovanni Paolo II, no? Che ha scritto tantissime encicliche su tantissimi temi della vita cristiana, ha parlato dei laici, dei sacerdoti, della famiglia, dei religiosi, dei vescovi, della confessione, dei sacramenti, dell'Eucaristia, del Rosario, però non ha fatto un'enciclica sulla vocazione, anche se ne ha parlato tante volte. Che cosa ha fatto sulla vocazione? Ha scritto il libro della sua vocazione, cioè ha raccontato la sua vocazione, perché ogni vocazione è personale, ogni vocazione, come lui diceva, è un dono e un mistero. Ma tutti i fedeli che recitano il Rosario possono pensare, quando stanno in questo primo mistero del Rosario, che stanno guardando la vocazione di Maria, da cui è nato Gesù e quindi è nata tutta la nostra salvezza, la redenzione del genere umano, l'incarnazione del Figlio di Dio, e però possono pensare alla loro vocazione, alla vocazione di ciascuno di noi, alla vocazione che abbiamo ricevuto nel battesimo, alla vocazione universale, cioè di tutti, alla santità, ad essere figli di Dio. Quindi veramente la Madonna è archetipo, è modello della nostra vocazione, anche perché è nostra madre. Io alla fine di questa riflessione dicevo questa preghiera: Dio onnipotente, che hai mandato l'angelo Gabriele ad annunciare a Maria l'ineffabile mistero dell'incarnazione del tuo figlio, fa che anche noi sappiamo ascoltare la tua voce che ci chiama nell'intimo del cuore. E questo è il primo schema di meditazione. Secondo, per esempio, per il secondo giorno della settimana, andiamo avanti. Il Vangelo dice: entrando da lei disse, rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Riempiti di gioia, Maria, le dice l'angelo, perché il Signore ti ha guardato e al Re è piaciuta la tua bellezza. Lui ti ha reso piena di grazia fin dall'istante del tuo concepimento e ti ha colmata di doni pensando a questo nostro incontro e alla tua missione. Sapeva che tu sola avresti potuto essere la madre di Dio, del Redentore dell'uomo. Piena di grazia è il tuo nome da tutta l'eternità, così ti chiamano gli angeli nei loro discorsi, così Dio ti ha pensato e ti ha creato, così io ti guardo e contemplo estasiato lo splendore della tua anima. Sei specchio della bellezza di Dio, immagine sulla terra per tutti gli uomini della sua immensa bontà ed infinita misericordia. Così io mi immagino un po' il pensiero dell'Arcangelo Gabriele di fronte a Maria, quello che tanti artisti hanno dipinto, tanti poeti hanno descritto nelle loro meravigliose poesie in questi 2000 anni di storia della Chiesa. E bravo, bravo, cosa... stai andando benissimo, avanti. Va bene così? Il tono della voce, ecco tutto. Allora, va benissimo. Don Tino, non ci stiamo addormentando, non ci stiamo annoiando, allora vado avanti così. Per niente, allora, avanti. Allora, io che cosa posso aggiungere, oltre a quello che ho scritto nel libro, a questo secondo pensiero? Posso aggiungere questo, che il Vangelo dice, entrando da lei disse, quindi non fa il nome della casa, però noi ci immaginiamo nella sua casa, possiamo dire nella sua vita, nelle sue cose, nel suo paese, nel suo quartiere, nella sua casa, no? Allora questo... il fatto che Dio abbia chiamato Maria nella sua casa, e nella sua ordinarietà, nella quotidianità di un giorno qualunque, a noi può dire tantissimo, a noi dice tantissimo, dice appunto che il Signore ci cerca lì, nella nostra vita di ogni giorno, nella nostra quotidianità. E poi, senz'altro, noi sappiamo che poi Gesù e Maria con Gesù e con Giuseppe ha vissuto 30 anni in quella Nazareth, 30 anni di silenzio, di normalità, però diremmo noi, di ordinarietà. Non è che quando si parla a volte di vita nascosta, però io penso non è che Gesù volesse nascondersi, non si nascondeva, era nascosta la sua divinità, quella che poi risplende sul Tabor e poi in un certo senso anche sul Calvario e nella resurrezione o nella vita pubblica quando si nota la sua divinità. Però ha vissuto una vita come la nostra Gesù e come la nostra Maria. Che il fatto che l'angelo sia entrato da lei, ciascuno di noi quando è nella sua casa, quando è nel suo posto di lavoro, quando è sulla metropolitana, sull'autobus, sul treno, per strada, può pensare l'angelo, il mio angelo custode o l'arcangelo che il Signore mi manda, mi chiama adesso ad essere attento a Dio, ad ascoltare la sua voce, proprio adesso. E questa è la prima notazione. La seconda, l'angelo dice rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Quindi gioia e pienezza di grazia, presenza del Signore. Ecco, questa gioia che deriva dalla grazia di Dio, è la grazia di Dio che noi dobbiamo desiderare di coltivare, di mantenere, è fonte di gioia. Io... Il libro che prima Don Tino ha citato, su cui ho fatto le prime conversazioni a Radio Maria qualche anno fa, sulla confessione, adesso l'ho ripubblicato con un titolo che si intitola Il Sacramento della Gioia. E il Papa recentemente ha parlato così del Sacramento della Confessione. Il Sacramento della Gioia, quando parlava nel messaggio per la Giornata Mondiale della Gioventù, diceva il Sacramento della Gioia, perché noi quando chiediamo perdono dei nostri peccati, quando ci riconciliamo con Dio, quando recuperiamo la pienezza della grazia di Dio, abbiamo l'esperienza della gioia. E io concludevo così questo secondo pensiero. O Dio, che nel visitare Maria le hai svelato la fonte della sua gioia, concedi anche noi che ti preghiamo di coltivare la vita della grazia per essere sempre pieni della tua gioia. E questo era il secondo quadro, possiamo dire, no? Sempre della stessa scena, come una seconda sequenza, no? E terzo quadro, non temere Maria. A queste parole, ella, sono altri due versetti, ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. E io così scrivo nel mio libro: la vista del messaggero, le parole di Dio che le rivolge, provocano in Maria un forte turbamento. La grandezza di Dio, la sua trascendenza, rivelata in dolci parole umane, è tremenda. Il cuore batte molto forte e si avverte la presenza dell'Eterno, un disegno d'amore che ci precede e ci guarda, ci interpella e conta su di noi. Intravediamo l'arduo cammino e le prove. Non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Non avere paura, figlia di Dio, figlio di Dio, perché a tuo padre è piaciuto di svelarti i segreti del suo regno. Non aver paura, cristiano, riconosci la tua dignità, la tua vocazione ad essere santo, santo come Dio è santo. Non avere paura di seguirla, perché Dio ti ha scelto, perché Dio ti ama, Dio ti aiuterà. A me è venuto in mente che quando Gesù stesso ripete tante volte questo invito a non avere paura, non temete, non temere piccolo gregge, non abbiate paura, quel grido che Giovanni Paolo II ripete proprio la prima volta in Piazza San Pietro: non abbiate paura, spalancate le porte. Ecco, io, a me piace pensare che Gesù, che dice questo, sa che queste parole lui stesso, come Dio, le ha rivolte attraverso l'angelo a sua madre Maria, e forse sua madre Maria gliele ha raccontate tante volte anche da bambino, per prepararlo a non avere paura. E anche se poi Gesù ha voluto provare la paura nel Getsemani, e sicuramente la presenza di sua madre lo ha aiutato a superare quella paura. Allora, io penso che la paura sia, appunto, Gesù stesso ha voluto viverla, è un'esperienza umana, è una passione umana che il Signore non ci toglie del tutto fin dall'inizio, non ce la risparmia, però ci invita a superarla. In qualche modo la vocazione provoca paura. Pensate a Mosè davanti al rovetto ardente, da un lato affascinato da questo calore, da questa luce che attrae, allo stesso tempo atterrito da questa soprannaturalità di un rovetto che brucia senza bruciare e quindi si getta a terra perché lì c'è Dio. E Maria si domanda che senso ha quel saluto. La sua paura è anche piena di riflessività, e questa è una cosa molto bella, molto umana di Nostra Madre Santa Maria. Quanto è grande Nostra Madre Santa Maria, quanto è libera interiormente, quanto è intelligente, possiamo dire, capace di intravedere i disegni di Dio, e non rinuncia a cercare di capire che cosa significa quel saluto. Cioè, lei vuole capirlo con la testa e con il cuore, e l'angelo la incoraggia dicendo che il motivo per superare quella paura, che deriva anche dalla grandezza del disegno che intravede nel pensiero di Dio, è proprio la grazia che ha trovato presso Dio. Quindi lei, che è piena di grazia, però non l'incita l'angelo a trovare in sé, solo in sé, le forze per superare questa prova, ma nella grazia che ha presso Dio. Quindi noi possiamo superare la paura di donarci a Dio, la paura di seguirlo sull'arduo cammino della santità, di seguirlo sull'arduo cammino della vita cristiana, basandoci sulla grazia in base alla quale Lui ci ha scelto, Lui ci ha chiamato, Lui ci ha prediletto, e sapendo, come anche recentemente diceva Papa Benedetto XVI, nella giornata delle vocazioni, nel messaggio, ogni vocazione nasce nella carità di Dio, nasce nell'amore di Dio, per cui non dobbiamo avere paura. L'origine della nostra chiamata è l'amore infinito di Dio per noi. Allora io così concludevo queste riflessioni. Dio Padre Onnipotente, che per mezzo dell'annuncio dell'angelo hai rassicurato Maria dal suo timore iniziale, incoraggiandola a seguire il tuo disegno, dona anche a noi che desideriamo servirti ed amarti, di vincere la paura di donarci interamente a te. E poi vado avanti, altri due versetti per un altro quadro, sempre sullo stesso mistero. E l'angelo gli dice: ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Maria, non aver paura, perché Dio ti ha guardata e ti ha scelta. Avrai un figlio che chiamerai come Dio lo chiama, Gesù. Significa Dio salva. Questo tuo figlio, infatti, salverà il suo popolo dai suoi peccati, figlio tuo e dell'Altissimo, re di un regno spirituale che non finirà mai. Molti, dopo di te, lo chiameranno con quello stesso dolce nome, Gesù. Ti saluteranno e ti onoreranno ricordandoti il frutto del tuo seno, Gesù, perché tu sei la madre. Tu lo porterai al mondo, Gesù, l'unico nome nel quale c'è salvezza. E io, pensando anche a questo fatto che noi e invochiamo tanto spesso il nome di Gesù, e lo dobbiamo fare, tanto spesso lo facciamo molto volentieri, proprio come una giaculatoria che nasce spontanea nel nostro cuore in qualunque momento della vita, e nella paura e nel dolore, nella gioia, quando abbiamo bisogno di una grazia, così come invochiamo il nome di Maria. Ecco, e nell'Ave Maria invochiamo tutti e due i nomi. Però pensavo, quante volte Maria come mamma avrà chiamato Gesù con il suo nome? Infinite volte, da piccolissimo, quando giocava Gesù, quando lo richiamava, quando il pranzo era pronto e doveva chiamarlo perché venisse a casa. E noi, quando chiamiamo Gesù, facciamo eco al modo in cui Maria lo chiamava, ci mettiamo dentro nella sua preghiera a Gesù. E io penso anche che queste cose così grandi che l'angelo dice a Maria, così belle, cioè gli dà il senso della sua vocazione, il senso della sua vita, sono cose così grandi che la aiuteranno sempre, anche queste lei le ha sempre coltivate nel suo cuore, e quindi l'hanno aiutata quando aveva il chiaroscuro della fede, la peregrinazione della fede, come dice Vaticano II, quando succedeva qualcosa nella vita sua o nella vita di Giuseppe o nella vita di Gesù o di tutti e tre, che di cui non capiva il senso. Allora, quelle parole sulla grandezza della redenzione l'avranno aiutata nei momenti di oscurità. È la stessa cosa che dobbiamo fare noi, cioè ricordarci delle promesse di Dio. Concludevo così: Dio Padre Onnipotente, che hai creato e scelto Maria di Nazareth come madre del tuo figlio Gesù, e nell'annuncio dell'angelo le hai rivelato il nome del Salvatore, concedi anche noi di invocare con frequenza il nome di Gesù per trovare in lui la nostra salvezza. E subito dopo Maria che cosa dice all'angelo? Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo? Perché, poiché non conosco uomo. Maria è pronta a compiere la volontà di Dio, ma vuole sapere come. Maria è ora senza paura, non ha paura dell'angelo né di Dio che è suo padre, non ha paura di rivelare la sua intimità, di svelare il suo dubbio pratico, di chiedere chiarimenti. Non conosco uomo, pur essendo promessa a Giuseppe, giovane, meraviglioso, buono e giusto, ho offerto all'Altissimo il sacrificio di vivere il matrimonio nella verginità, ho offerto a Dio la rinuncia ai figli per affrettare la venuta del Messia, che il mondo non può più attendere. Ero convinta che questa fosse l'ispirazione di Dio. Ma ora che so che Dio mi chiede di rinunciare alla grande rinuncia, come avverrà questa maternità? Dovrà accadere in un modo che comporti un'altra rinuncia? Forse dovrò rinunciare a Giuseppe, o alla verginità, o al matrimonio, o all'onore? Sono pronta a fare ciò che Dio mi dirà. Metto me stessa, la mia vita, i miei affetti, i sogni, i propositi, tutto nelle mani di Dio. Questo è l'atteggiamento con cui Maria fa quella domanda, e i santi, i padri, e il Magistero della Chiesa ci ripropone, anche Giovanni Paolo II nell'Enciclica Summa Ia, il paragone di lei con Abramo. Anche ad Abramo Dio ha chiesto un sacrificio, il sacrificio del figlio, cioè della sua promessa, di quello che lui stesso gli ha regalato, della cosa grande, e a Maria chiede qualcosa del genere. Io riflettevo proprio adesso, prima della trasmissione, no? Che l'angelo prima le dice che cosa avverrà, ma non le dice come. In qualche modo la mette alla prova, e la Madonna supera in modo meraviglioso questa prova, perché dice a Dio: sono tutta tua, sono tutta nelle tue mani, fai di me quello che vuoi, cioè sono disposta a rinunciare a tutto, dimmi tu come dovrà avvenire questa maternità che tu vuoi che io abbia. E allora io prego così: o Dio che ispirasti alla Vergine Maria il progetto della verginità, concedi a noi di servirti con purezza di corpo, di mente e di cuore in ogni stato di vita, disponibile ad accettare e a compiere in tutto la tua amabilissima volontà. E sono sicuro che la Madonna ci può aiutare in modo particolare, appunto, quando siamo messi in queste prove. Vai pure avanti, che è ancora 7 minuti. Bene, grazie Don Tico. Allora, abbiamo ancora due scene dell'annunciazione, e forse ce la faccio. Allora, le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra, perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il 6° mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Questa, Maria, è un'iniziativa assoluta di Dio, e Lui vuole che si veda che è opera sua, solo Lui con te. Ti coprirà come coprì l'arca del deserto con la sua nube, come coprì il Sinai quando parlava a Mosè. Tu sei la nuova arca dell'alleanza nel deserto del mondo assetato di salvezza, e porterai al mondo, dal monte del tuo seno, la parola di Dio fatta bambino. Dio ha voluto la tua verginità, che diverrà seconda. Vuole il tuo matrimonio verginale con Giuseppe, ma vuole anche la tua maternità e la sua paternità spirituale di Giuseppe. Ti riempirà di sé e tu concepirai. Il Figlio di Dio vuole abitare sotto il tuo cuore, prendere il tuo viso, nutrirsi dei sentimenti della tua anima, discendere dalla tua storia. Sarà chiamato anche figlio tuo, e tu sarai chiamata madre di Dio. Io penso che, ecco, è meravigliosa questa risposta dell'angelo a Maria, dopo aver superato la prova, essersi donata del tutto a Dio, come dire, con la sua disponibilità, l'angelo le svela il mistero. E a me viene in mente così, che qua, tutte le volte che leggo questo brano del Vangelo, e quando l'angelo dice nulla è impossibile a Dio, mi torna in mente una volta, tanti anni fa, appena giovane sacerdote, da poco ordinato, una prima meditazione, era su questo brano del Vangelo, leggo il Vangelo, e poi una signora viene da me e mi dice: quando lei, il momento più bello della meditazione, più utile per me, è stato quando lei ha detto nulla è impossibile a Dio. E allora io in quel momento mi sono, poi le ho detto: ma guardi che è l'angelo, anzi lo Spirito Santo, che ha detto questo, no? Mi sono accorto che la potenza che hanno le parole di la parola di Dio, la potenza che ha la parola di Dio. La parola di Dio ha un'efficacia straordinaria, e per questo che il Papa vuole che la ricordiamo quando recitiamo il rosario. E io penso che questo mistero straordinario dell'incarnazione, che noi ci meditiamo tutti i giorni, e il 25 marzo quando chiediamo al Signore di saperlo contemplare, vero Dio e vero uomo, vero Dio e vero uomo, che ci può aiutare a meravigliarci della nostra umanità. Quando mi piace tantissimo, e ce l'ho sotto mano, e citare che quando il Papa Giovanni Paolo II, nella sua prima enciclica, che era proprio sul Redentore dell'uomo, e diceva che dobbiamo, l'uomo che vuole comprendere se stesso fino in fondo deve avvicinarsi a Cristo, deve entrare in Lui con tutto se stesso, deve appropriarsi e assimilare tutta la realtà dell'incarnazione e della redenzione per ritrovare se stesso. Se in Lui si attua questo profondo processo, allora Egli produce frutti non soltanto di adorazione di Dio, ma anche di profonda meraviglia di se stesso. Quindi quando noi ammiriamo Gesù che si fa uomo nel seno di Maria, come diceva San José Maria nel suo libro Santo Rosario, diceva in questo mistero, diceva nell'incanto di quelle parole virginali, quando la Madonna dice il sì e il Verbo si è fatto carne, sta per terminare la decina, ho ancora il tempo per dire al mio Dio prima di ogni altro mortale Gesù ti amo. Allora, quando noi contempliamo Gesù che si incarna, che diventa uomo, dobbiamo anche riscoprire la grandezza della nostra umanità che Dio vuole abitare. E nel vedere queste parole dell'angelo, io vi dico un'ultima cosa, come umano appunto nostro Signore, è Lui che ci ha creato, è logico che sia molto umano, e alla Madonna a cui dà un compito così grande, le svela che una sua parente, è anche lei stata toccata da una grazia importantissima, e così la Madonna ha una persona da cui correre e con la quale confidarsi, e che la può capire, perché anche lei ha avuto qualcosa di simile, e infatti sappiamo che la capirà meglio di quanto la Madonna poteva immaginare. O Dio Onnipotente, che scegliessi la Vergine Maria come tua madre e Giuseppe come suo sposo, accresci per la loro intercessione la nostra fede, perché sappiamo contemplare Gesù nascosto nelle vicende dei nostri giorni. E l'ultimo pezzettino del Vangelo è quando il sì di Maria. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Eccomi, con il mio timore trasfigurato in stupore. Eccomi pronta per tutto quello che hai detto, per tutto quello che non mi hai detto e conosco dalle scritture, e quello che ancora non so e conoscerò quando mi avverrà secondo il disegno dell'Altissimo. Sono tutta tua, ancella della tua gloria. Credo, spero, amo il mio Dio che mi ha resa madre dell'Onnipotente. Al mio eccomi il figlio mio divino risponde eccomi e viene ad abitare dentro di me. Quando dicevi concepirai, scrutavo già il suo sguardo. Dicevi lo darai alla luce, mi illuminerò di quella luce. Sarà grande e il mio sogno è al di là dell'orizzonte. Regnerà per sempre vedrò il suo volto. E io penso che questo sì di Maria così decisivo, no? Per tutta la storia della redenzione mi fa tornare in mente quello che il Papa Benedetto XVI diceva ai cardinali riuniti nel Concistoro del 2006, li stava per creare cardinali, quindi personaggi molto importanti nella Chiesa, partecipi anche del suo governo, e gli diceva a loro, no? Diceva: guardate che voi sapete che il principio mariano della Chiesa è più originario e più fondamentale del principio petrino, cioè, come dire, è importante San Pietro e la gerarchia, il governo della Chiesa, fondamentale, no? La presenza dei sacerdoti, però la Madonna viene prima, e forse perché anche noi sacerdoti e anche tutti quelli che hanno un compito di governo della Chiesa abbiamo un fondamentale bisogno di sentirci generati da Maria, abbiamo bisogno di sentire che la Chiesa è tutta generata da questo sì, è stata accolta la parola di Dio dal sì di Maria e così viene generata. C'è una madre all'inizio della vita di Gesù, all'inizio della storia della Chiesa, all'inizio della nostra vocazione, c'è una madre il cui sì ci ha generato alla vita soprannaturale, alla vita cristiana, il cui sì continua a generarci alla vita di santità. E io concludevo così questa riflessione: o Dio Onnipotente, che nell'immediata disponibilità di Maria di Nazareth hai voluto legare l'inizio dell'incarnazione del tuo figlio, concedi anche noi di rispondere senza indugio al tuo desiderio di configurarci a Cristo tuo figlio, per cooperare con lui all'opera della redenzione. Benissimo. Ecco. Allora, ci dai una bella benedizione, Don Andrea, anche sì. A nome di Santa José Maria Escrivá. Santa Maria, certo, molto volentieri, che vi benedice dal cielo, sicuramente. Allora, la benedizione di Dio Onnipotente, per intercessione di Maria Santissima, e Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su voi tutti e rimanga sempre e dia molto frutto. Amen. Grazie infinite, prega per noi, Don Andrea. Molto volentieri, anche voi per me. Ci sentiamo al più presto, buonanotte. A risentirci, buonanotte. Grazie, ciao. Grazie. Grazie a te, ciao.